il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. I fiumi come opportunità di turismo sostenibile. È questo l'argomento che affrontiamo oggi al quadrifoglio. La risorsa fiumi, infatti, nel nostro paese è ancora molto poco valorizzata per scopi sia ricreativi che turistici, a differenza di quanto avviene in altre nazioni come per esempio la Gran Bretagna o la Francia. Eppure, soprattutto nel Veneto, potremmo beneficiare delle numerose bonifiche ai canali e di tutto il lavoro realizzato dai veneziani, che porta ad avere oggi una rete di corsi d'acqua che costituirebbe un'opportunità unica nel nostro paese, che aspetta solo di essere colta. Perché non è così? A che tipo di attività si può pensare nella nostra regione e perché il turismo d'acqua può considerarsi sostenibile? Ne vorremmo sapere di più con Francesco Vallerani, docente di geografia all'Università di Venezia, autore di un recente volumetto intitolato Tra Colli Euganei e Laguna Veneta, realizzato nell'ambito del progetto Adria Muse, un progetto inteso a promuovere i beni culturali del litorale adriatico e finanziato da fondi comunitari del programma IPA Adriatico. Ecco, al professor Vallerani, al quale do il benvenuto, chiederei subito se vede un futuro per il turismo fluviale nel Veneto. Dunque sì, il tema è un tema quanto mai urgente da affrontare, soprattutto considerando la potenziale rete idrografica che attraversa tutto il territorio veneto e che possiamo ritenere navigabile dalla fascia delle risorgive fino al litorale alto adriatico. Quindi come caratteristica territoriale può essere collocato tra le regioni d'Europa più ricche di corsi d'acqua, pertanto corsi d'acqua che erano utilizzati fino agli anni 60 nella navigazione commerciale, che adesso tale attività di collegamento, di trasporti non viene più praticata, resta comunque tutto il sistema idrografico che a partire da ovest, cioè dal confine con la Lombardia, ovvero con il Mincio che collega il lago di Garda, certo, a Mantova e al Po, arriviamo attraverso Adige, Bacchiglione, Brenta, Sile, Piave fino al Tagliamento che fa da confine con il Friuli. Ecco, la cosa più interessante di queste vie d'acqua è che si collegano al sistema delle lagune, che è un altro aspetto morfologico unico del Mediterraneo, se escludiamo ovviamente la Camargo, il delta dell'Ebro, il delta del Nilo, insomma. Quindi è un sistema di connessioni che mette in relazione anche la città d'acqua per eccellenza che è Venezia. Un sistema ampio, perché non ci sono solo i fiumi grandi che abbiamo citato, ma anche tutta una serie di canali minori che sono pur sempre navigabili e che riescono a portare in quasi ogni luogo nell'entroterra. Sì, esatto, quindi non c'è villaggio, paese, cittadina del Veneto che non sia solcata da un corso d'acqua. Ovviamente fiumi minori vuol dire anche imbarcazioni minori, quindi non necessariamente, certo, il Burchiello può essere portato in tutte le vie d'acqua del Veneto. Ecco, perché all'estero invece, almeno in alcuni paesi, questo si è sviluppato maggiormente? Cioè si parla di turismo fluviale mentre per noi è ancora una cosa un po' sconosciuta. Probabilmente i motivi sono molteplici. Noi potremmo identificare il fatto che l'Italia si è avvicinata all'industrializzazione 50 anni dopo Francia, Inghilterra, Germania. Ecco, non che Germania, Francia, Inghilterra avessero dei fiumi in buone condizioni. Dopo la seconda guerra mondiale è iniziato un recupero con dei progetti lungimiranti, quindi c'è stata una visione piuttosto ampia di interessi, cercando di accomodare le esigenze degli interessi privati con il bene comune. Ecco, in questi paesi pensavo ci sono questi grandi fiumi nei quali si può pensare anche ad una vacanza di più giorni, cioè c'è chi organizza veramente delle vacanze in barca, come molti sono abituati a farlo lungo i litorali, i marini, c'è chi lo fa anche lungo i fiumi. Forse da noi è un po' più difficile, sono corsi d'acqua brevi, quindi si deve pensare ad un turismo magari di giornata o di weekend. Ma non necessariamente, anche sì, 2 o 3 giorni si possono trascorrere Pensiamo solo all'Adige da Legnago verso il mare, potrebbe essere un paio di giorni di navigazione, magari intersecandosi con i canali che ti conducono verso il Po, si può risalire verso Ferrara, verso Mantova, quindi alla luce di questo sono anche 3, 4, 5 giorni. Se poi consideriamo la litoranea veneta, le immagini solo si può partire da Cremona e arrivare verso Grado, Aquileia, sempre per acque interne, quindi qui allora ci vuole anche una settimana, 10 giorni. Dei veri e propri viaggi. Ci fermiamo un minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di turismo fluviale, lo stiamo facendo con Francesco Vallerani, docente di geografia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco professore, si può pensare al turismo fluviale come ad un'opportunità anche per la valorizzazione del territorio in cui questi fiumi si trovano a passare? Penso ad esempio ai manufatti abbandonati o delle aree da tutelare. Sì, indubbiamente la rete di canali, ma anche corsi d'acqua, costituiscono un'armatura territoriale vera e propria, che va considerata in una visione urbanistica complessa, quindi una pianificazione che tenga conto delle vie d'acqua non può che giovare a una migliore e ottimale gestione di tutto il sistema territoriale. Pensiamo solo alla questione delle alluvioni che di recente hanno un po' funestato la situazione del nostro territorio. Ecco, curare i fiumi potrebbe significare un miglior governo, per esempio, dell'espansione così caotica e disordinata dell'edilizia. noi abbiamo un po' tutti sott'occhio questa città diffusa che sta divorando la terra buona, il terreno fertile. Dunque le vie d'acqua sono un'articolazione che in qualche modo blocca l'espansione, dovrebbe un po' costituire delle linee di biodiversità per una rigenerazione del territorio. Ecco. Ecco, in conclusione di questa trasmissione vorrei chiederle se lei vede nel turismo fluviale anche un valore educativo, nel senso che dal punto di vista di chi viaggia lungo un corso d'acqua, non solo il territorio assume un aspetto diverso, ma siccome il fiume è anche ricettacolo di tante cose, come per esempio l'inquinamento, ci si può rendere conto di come ha gestito quel territorio. E quindi viaggiare maggiormente su un fiume forse aiuterebbe, ci aiuterebbe a un cambio di mentalità, nel senso di un maggiore rispetto della sostenibilità ambientale. Sì, perfetto, sottoscrivo in pieno questa analisi. Il fiume è un po' l'indicatore della qualità ambientale, ma anche delle scelte di politica ambientale, di politica urbanistica che i responsabili politici possono adottare. Quindi il fiume è un po'... soprattutto nel caso Veneto, perché teniamo conto che noi siamo solcati da tutta questa rete idrografica che non è solo naturale ma anche artificiale, e quindi un buon stato di salute delle acque, pensiamo solo alla, non dico al ripristino della balneazione, ma potrebbe determinare degli ottimi risultati. La ringrazio. Buona giornata. E passiamo adesso ad alcune notizie. L'Unione Europea si mobilita per salvare le api. Proprio in questi giorni abbiamo l'esempio di una moria di api in Friuli Venezia Giulia, forse correlata all'uso di neonicotinoidi in agricoltura. Ma ogni anno si assiste in Europa alla moria fino al 30% delle colonie, con un impatto negativo non solo sull'ambiente, ma anche sulla sicurezza alimentare, in quanto sono le api a garantire la riproduzione di più dell'80% delle specie vegetali. Un impegno a salvaguardia delle api è stato assunto dai rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni internazionali e dagli stessi apicoltori riuniti a Bruxelles per la terza edizione della Settimana Europea delle Api e dell'Impollinazione. Dal confronto è emersa chiara la necessità di attuare delle vere oasi di biodiversità, delle riserve di polline e di nettare per soddisfare i bisogni alimentari delle api e mantenere le loro difese immunitarie. L'EFSA, l'autorità per la sicurezza alimentare dell'Unione Europea, ha lanciato quindi un appello urgente affinché gli sforzi di ricerca siano meglio coordinati per fare avanzare realmente le conoscenze, lottare per la salvezza delle api e salvaguardare la biodiversità. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali comunica che il decreto legge misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, per un'Italia coraggiosa e semplice, approvato lo scorso 18 aprile dal Consiglio dei Ministri, non contiene la reintroduzione dell'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale. Sono state inoltre salvaguardate le agevolazioni per il gasolio agricolo, l'esenzione IRES per le cooperative agricole e di piccola pesca e il regime speciale dell'IVA per le imprese agricole. Il decreto contiene inoltre una rimodulazione della base imponibile per i terreni montani e collinari e una correzione fiscale sulla produzione di energie rinnovabili da imprese agricole. Il TAR del Lazio la scorsa settimana ha bocciato il ricorso presentato contro il decreto interministeriale che proibisce la semina di mais Biotech MON 810 modificato geneticamente. Lo rende noto con grande soddisfazione la Coldiretti nel sottolineare che la sentenza conferma definitivamente il divieto di coltivazione di OGM in Italia. L'agricoltura italiana resta dunque libera dagli OGM, come chiedono quasi 8 italiani su 10, 76%, dice Coldiretti, 76% che sarebbero contrari all'utilizzo di organismi geneticamente modificati nell'agricoltura italiana. Nell'Unione Europea nel 2013 sono rimasti solo 5 su 28 i paesi a coltivare OGM, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, con appena 148.000 ettari di mais transgenico piantati per la quasi totalità in Spagna. Concludiamo con un paio di appuntamenti riguardanti un prodotto di stagione, gli asparagi. Fino al 4 maggio a Bado Ereri, in provincia di Treviso, si festeggia l'asparago IGT, che si potrà acquistare e degustare nell'apposito stand gastronomico. A Conche di Codevigo, altro luogo deputato alla produzione, la festa dell'asparago si svolgerà invece fino all'11 maggio. Anche per questa settimana è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Avete ascoltato? Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con Arcav,